Radio Palmer. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, a hollow. What the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Who's communication? Bravo Tango, Bravo Tango. Go. Sì, sì. Go dove? Or not to go. Sì, è quello, Shakespeare. Ma nei limiti e nel vuoto siderale. Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente. Niente. Wow, maestro, che introduzione. Allora impallidirà la mia... il mio dare buonasera a tutti. Oh, guarda delle pecore. Buonasera pecore, buonasera canalizzatori, buonasera ai viaggiatori, buonasera ai palombari, buonasera a Mitra Varuna, buonasera agli apicoltori provenzali, buonasera agli antichi accordatori, ai nuovi discepoli, buonasera, buonasera. Siete all'ascolto di Lezioni Universali di Esistenza, la trasmissione più bella della storia della radiofonia italiana, caro maestro Ottani, qui con me. Buonasera maestro, davvero buonasera. Buonasera, mi è appena arrivato un comunicato un po' in ritardo, in questo caso è morto Theoden, dicono. Vorrei far presente a chi mi ha scritto questo messaggio in ritardo che non è solo il ritardo di qualche settimana, ma è bensì in ritardo di qualche era. Allora, iniziamo in modo inconsueto quest'oggi perché è di nuovo con noi, per la prima parte della puntata la salutiamo bellissimamente con noi, la dottoressa Candy. Buonasera, buonasera a tutti, sono tornata per stare un pochetto con voi. Buonasera dottoressa. Buonasera dottoressa, grazie davvero per essere con noi, ricordiamo che è la consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Caterina da Londra, e che come ci aveva promesso nella scorsa puntata ha infatti oggi portato per noi una domanda da parte di Caterina da Londra. Sì. Ma è una professione, io avrei una domanda un attimo, scusa, per la dottoressa. Questa sì. È una professione che va molto a Londra, oppure da Londra prendete contatti, come dire, cioè le richieste? È una professione che va, che intanto va. E Londra è una meta periferica, esatto, periferica dello spazio, certo, proprio, certo, certo. E che raggiungo sporadicamente, qualcuno direbbe anche d'Europa. Sì, esatto. Ma ormai con le connessioni intersatellitari non c'è necessità di essere fisicamente in loco, giusto? Assolutamente. Io vedo in ologramma Caterina praticamente tutti i giorni nella cucina di casa mia. Lei risiede in varie galassie o ha una casa stabile? Dove voglio, mi sveglio e decido, insomma, il sistema. Il suo lavoro permette d'altronde di questi privilegi? Assolutamente, sì. Certo. Che invidia. Parla per te. Parlerò per me. Dottoressa Candy, ascoltiamo insieme la domanda che ci ha portato e sentiamo la risposta del maestro. Io ho avuto il piacere, l'onore di ascoltarla in anteprima, la trovo meravigliosa questa domanda di Caterina da Londra. Caro maestro, voglio tutta la tua attenzione. Marvel. Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, intanto innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, devi sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio. Quindi, in quanto esperto in materia, le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri? Che tipo di melodie? Che tipo di strumenti? Che tipo di suoni, quindi? La ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina. Ciao. Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita. E, allora, quindi stiamo parlando più che di etnomusicologia in questo caso, vorrei precisare, più che per te, per gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa, di esomusicologia, per l'appunto. E, chiedo scusa per l'errore della collega. Insomma. No, sorvoliamo con degli UFO. Esatto, con dei mezzi, con degli ovni. E, diciamo, io partirei da questo presupposto. Nella nostra atmosfera le onde sonore, le vibrazioni che vanno a costituire la musica hanno bisogno di un mezzo fisico di propagazione, che sia l'aria, che sia l'acqua, che sia il metallo, un materiale all'interno della quale queste onde, esattamente come quando gettiamo un sasso sulla superficie di un lago, vediamo queste onde generarsi, no, in maniera concentrica, allo stesso modo agiscono le onde sonore nell'aria e in altri materiali. Quindi deve esserci una compresenza di due fattori, direi. Un materiale capace di trasmettere queste onde sonore, che abbia le giuste caratteristiche fisiche per farlo, e dall'altro lato un apparato uditivo o tattile capace di recepirle. Perché dico tattile? Perché soprattutto quando il mezzo di diffusione, di propagazione delle onde sonore è abbastanza denso, noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei, ma andare al di là e immaginarci che all'interno di un elemento come l'acqua o all'interno di una vasca di mercurio è molto più... Rompendo molti termometri. Non fatelo a casa. No, anche perché non c'è più il mercurio, c'è un altro metallo. Sì. E praticamente questi, all'interno di questi di queste sostanze, quindi di questi materiali, potrebbe essere molto più auspicabile avere un sistema tattile abbastanza sviluppato da leggere gli intervalli e le differenze che ci sono tra le onde sonore, e che quindi ci permettano di costituire, di riconoscere il fenomeno musica. No, maestro, io farei un attimo una pausa. È un argomento estremamente interessante, denso e profondo. Denso del resto come... Come, certo. No. Grazie. No, io così lo ascolto. Cogliamo l'occasione per fare questo. Salutiamo la dottoressa Candy, che purtroppo sì, ci deve lasciare... Sì, che ho degli affari spaziali incombenti. Ce l'aveva detto in anticipo, e al suo posto accogliamo un altro grande interlocutore che sarà con noi in questa puntata per andare ancora a fondo su questa domanda di Caterina. La riprendiamo da dove l'abbiamo interrotta. Intanto, dottoressa Candy, grazie certo. ancora per grazie la sua grazie partecipazione. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille. Sempre siamo veramente breve. Onoratissimi della sua partecipazione, e speriamo che non sarà l'ultima quando dai suoi impegni potrà assolutamente essere... Assolutamente. Spero un giorno di far parte dei suoi affari spaziali. Ti ringrazio, per me è sempre un vero onore, maestro Ottani. Arrivederla, dottoressa. Arrivederci. E allora, mi sono chiuso il microfono. E allora, il riassunto di due puntate fa, e poi subito rientriamo. Viva! Wow. Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. A antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo. So cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati. Space is the place. Space is the place. I nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava. O forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga. Appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro. Il fischio è la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso. Il sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo. Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Il Samivdana Brahma dice che gli dèi vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i Mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo. Il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori. E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo delle tre, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente diversi animali. Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali. Una delle forme di melodie a picco. Wow! Prego maestro. Quanta saggezza, quanto timing. Una delle prime forme di melodie a picco che possono essere, come dire, ritornate attraverso l'evoluzione della musica o rimaste più che ritornate all'interno di numerose tradizioni sia europee che africane che asiatiche, è lo yodel, la tecnica dello yodel. Un saluto a voi dalle montagne, alle montagne. Molto bene, in questa puntata, come nella scorsa, improvvisiamo la scaletta perché che cosa sta succedendo? Ci ha salutato la dottoressa Candy, che ringraziamo e salutiamo, e invece ci ha finalmente, che bello, raggiunto, è tornato con noi. Eh sì, lo sentite il respiro profondo, lo sentite? È l'elemento dell'aria. E lui è il maestro Ricky Gianco. Ciao a tutti! Buonasera maestro, buonasera! No, era colpa mia, avevo alzato troppo il microfono per festeggiarti. Per festeggiarti. Quella è l'aria che entra dentro i circuiti. Esattamente. Allora, caro maestro Ricky Gianco, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, ovvero dalla domanda di Caterina da Londra. Parliamo di musica in questa puntata molto musicale, era la nota sol, questa degli appunti notati che c'era nel riassunto. Riascoltiamo insieme la domanda di Caterina da Londra, evviva! Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio, quindi in quanto esperto in materia le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri, che tipo di melodie, che tipo di strumenti, che tipo di suoni, quindi la ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina, ciao. Allora, parlavamo di questo. Bella la domanda, vero? Profondissima. E infatti la risposta era lunga e articolata. Abbiamo voluto interromperla per poi riprenderla in questo secondo tempo. Ma infatti quella era una parte della risposta, perché infatti la seconda parte della risposta si articola sulla quale tipo di sistema, quindi, potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale. Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. Chiarissimo, maestro. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra e quindi la successione degli armonici. Fondamentale non solo per il fenomeno musica in realtà, ma matrice di tanti altri fenomeni anche diversi rispetto alla musica. In questo senso, probabilmente su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta. Maestro, io penso che ti suggestioni tantissimo, Caterina da Londra, perché ogni volta dai delle risposte completissime e stupende. Cazzo, allora torniamo allo Jödel. Ma se va fuori equilibrio, insomma, dai. Giusto, infatti, sarebbe da ricercare in questo senso. Noi lo traduciamo così poi alla fine con quello che è la nostra conformazione fisica, no? Cioè, certo, al di là non possiamo andare, no? Ma infatti tutte queste tecniche, come dire, che ereditiamo anche dall'antichità, sono assolutamente non solo da riscoprire in ambito artistico, ma anche, secondo me, in ambito medico, verrebbe sì, da dire. Sì, sì, curare con le frequenze. Esattamente. Maestro Ottani, ma dici qualcosa di più? Se te dovessi scommettere su qualche cosa per un altro sistema solare, per un'altra forma di vita a base carbonica o silicia, quale elemento fisico penseresti di poter ritrovare come l'armonico nel... Dirò quello che non sono sicuro di ritrovare, perché sul fatto che esista un sistema di percezione delle onde sonore e quindi di conseguenza attraverso anche un intelletto e un cervello abbastanza sviluppato, poter andare a riconoscere un sistema musicale, a me mi viene da pensare anche che non è detto che un'eventuale figura, un'eventuale, come dire, razza aliena possa possedere, come invece noi esseri umani abbiamo, un organo di emissione. Io sto parlando dello strumento musicale madre e padre di tutti gli strumenti musicali, cioè la voce. Maestro Ricky Gianco, sono domande veramente sì, altissime. Perché, esatto, alzando la frequenza, la materia perde la sua importanza in un certo senso, no? E quindi ci si eleva e forse si crea più spazio tra le nostre cellule che è possibile si possa emanare con tutto il corpo il suono. È quella, esatto, questo potrebbe essere una possibilità. A proposito di suono. Ma è quella cosa che... qualcuno. Ma è quella cosa quindi che nella mia testa dà un po' l'idea della trasformazione dalla materia all'energia. Sto pensando alla famosa formula, equazione anche di Einstein in questo senso. Cioè, nel momento in cui inizia a vibrare molto più alto la materia, forse quasi più non si può parlare di materia, non lo so. Sì, perché poi se si sale di dimensione, noi eravamo nella terza, con la sua gamma di frequenza, e elevandosi dovremmo arrivare a una quinta, che transita da una quarta, che è un abbandono della terza, è un'evoluzione verso la quinta. Quindi dalla quarta ci stiamo passando adesso? Sì, in realtà ci siamo. Ci siamo. Infatti gli argomenti di che si trattano tra amici sono questi, ora. E siamo in direzione. Sì. E quindi alzandosi la frequenza evolve tanto da lasciare il fisico, il corpo, in quanto peso, in una densità diversa. Ma lei pensa... Quindi si trasforma in una densità meno densa. Meno densa. Ma lei pensa, diciamo, che questi argomenti, prima che entrassero a far parte della sfera, diciamo, amicale, erano quelli che stava battendo la scienza o... Che abbatteva la scienza. Che abbatteva la scienza. proprio quelli. Perfetto. Erano loro. Li stiamo salvando in qualche modo. Sì, via, si dà una bella spolverata e si espone al sole e tutto si illumina. Si espone al sole. No, c'è un sole tremendo, ragazzi, è arrivato... Ma a proposito di evaporazione, caro maestro Ricky Gianco, prima delle nuove domande con le quali vogliamo cimentarci in questa puntata, noi abbiamo nella scorsa... dato un'occhiata a cosa era successo 3 mesi dopo lo scorso disvelamento dell'esperimento sulla memoria dell'acqua che abbiamo assieme quindi compiuto. C'è stato l'anticipo e ora siamo andati avanti. Allora, arriviamo subito al punto a cui eravamo arrivati insieme alla dottoressa Candy. Questi evapora. L'acqua con l'amore, che adesso ti passiamo in visione, è rimasta terribilmente limpida. Ha mantenuto lo stato che avevamo in 3 mesi or sono. Non si è decomposto il riso, non è evaporata, non ci sono bollicine in sospensione, minuscoli frammenti... Giusto sulla superficie del riso. Qualcosa di leggerissimo. Leggerissimo. Fantastico. Non così cristallina. Sull'esperimento, non così sulle bottiglie dell'amore. Aspetta, il neutro. Neutro è particolarissimo. E questo è quello che ci ha sorpreso di più. Il fatto che il neutro abbia conosciuto questo processo di... decomposizione è molto accentuato, c'è tanto in sospensione, molto di più rispetto che a tutte che alle altre due. Favoloso, sì, delle piccole isole galleggianti. Esatto. Abbiamo altresì notato che nella bottiglia dell'odio, in cui questo processo è meno accentuato, ci sono molte bollicine di evaporazione. Si vede proprio la differenza, chiara, vero? In prospettiva della densità dell'acqua, che nell'amore zero. Sì, è assurdo rispetto agli altri. Osservando l'odio. Se... A distanza di una puntata, possiamo dire, credo, che abbiamo riscontrato anche una forte prova che va a confutare la tesi del nostro benemerito e beneamato ex papa. Sì? Eh sì, perché lui, da buon ex prelato, voleva farci riflettere e dubitare anche del fatto che appunto l'odio e l'amore fossero due cose effettivamente diverse, o magari se non una era l'assenza di quell'altra. In questo caso lui andava a sostenere l'odio è semplicemente assenza d'amore, ma vista la differenziazione tripartita che hanno portato i risultati di questo esperimento, il trino, non la dualità da cui partiamo, io credo che sia un dato importante questo a cui chiedo al nostro ex papa di rispondere. Sì, sono d'accordo, lo chiedo anch'io, perché entriamo nel trino. Sì, è singolare la tesi della dottoressa Candy. La dottoressa ha sostenuto che in realtà è così perché sulla breve l'odio ha subito gli attacchi delle invettive che gli abbiamo rivolto. Il neutro, al quale non abbiamo rivolto alcunché, né odio né amore, sulla lunga ha sofferto di più perché è stato semplicemente un oggetto indifferente per noi, non ci ha riguardato nell'odio e nell'amore, che sono comunque due sensazioni profonde, accese, forti, a differenza del niente che gli abbiamo rivelato, riservato. Quindi il vero odio forse è l'indifferenza, in questo senso. No, questo odio, indifferenza, odio... Sulla lunga ferisce e scalfisce di più un niente rispetto a un sentimento di odio. Questa è una possibilità. Un'altra che azzarda voi, maestro Ricky Gianco, è che l'odio abbia subito un processo più lungo, nel senso, in questi 3 mesi buona parte si è evaporata, i filamenti siano ricaduti e ci appaia oggi più limpido, perché ha subito semplicemente il processo che fra qualche settimana accadrà anche a quella neutra. Ma probabile, questo è un metodo troppo scientifico, questo. No, ma di base approcciamolo, perché l'occhio in realtà si sofferma sul neutro, che l'acqua è abbastanza torbida. È parecchio torbida, è la più torbida. Forse, sì, e poi ci sono quelle isole in sospensione dell'odio. Ma l'odio sembra di conseguenza aver subito un'alterazione avanzata rispetto al neutro, come diceva appunto le notre conducteur. Giusto. E il neutro, se mi permetti, maestro Ricciardo, il neutro è in in stand by. Ma io e non ha preso nessuna posizione delle due. Proviamo a affiancarli, guardiamo se l'odio. Vedi, l'odio è a un livello molto più basso, l'acqua. Sì, è vero, anche sì. È evaporata di più. Sì, in generale. Il neutro, in realtà, la quantità è maggiore rispetto alle due. Amore e odio hanno. Erano partiti quasi. Mentre adesso l'odio ha uno scalino piuttosto netto. Con neutro, sì, con l'amore meno. C'è meno acqua nell'amore. Sì, però più acqua dell'odio e decisamente di più nel neutro. Però le tracce di evaporazione ci sono solo nell'odio. Sì, in più si intravede la scritta con un taglio diagonale abbastanza drammatico e unto laddove non abbiamo unto nulla. Un taglio diagonale, è vero. Invece amore non si vede nulla attraverso. Io sostengo che comunque nel neutro si raggiunga il colore verde, che è l'equilibrio tra le due cose, e rimane in sospeso, appunto, ritornando alla tua ipotesi, tra le due parti molto estreme e accese. Quindi è probabile che fare parte di una fazione o dell'altra, parlando di estremi, e quindi chiamiamole fazioni, forse il neutro è quello che ci permette di evolvere. Io non me l'aspettavo, maestro Ricky Gianco, questa conclusione da parte tua, devo essere onesto, stavo per andare oltre, ma invece vorrei rimanere un minuto ancora, perché no, noi siamo schierati per l'amore, per la limpidezza dell'acqua. Se vuoi che succedano le cose, sì, se le vuoi tenere in sospensione in neutro, se vuoi agire con odio, sai come fare. Ma cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori di agire? Quello bisogna sentirlo davvero. E se non lo senti rimani nel neutro, dove non evolvi, poi non prendi una direzione, fermi il tempo, lo subisci, se lo subisci. Ma è giusto starci non sentendo fortemente un altro dei due sentimenti? Sì, forse vuol dire non schierarsi, non far parte di una o dell'altra, ma non è viltà, forse è uno stato di attesa, in attesa di maturare un sentimento decisivo. Proviamo a dare amore al neutro e lasciamolo da solo. Eh? Faresti questo? Sì, dai. Perché no? Appendice all'esperimento. Attenzione. Io li avrei lasciati invece, prima di fare questo, te lo dico giù, sì, non voglio stemperare l'entusiasmo, per carità. Ancora 3 mesi e vedere se davvero ricade il neutro. Se quelle isole in sospensione che vediamo oggi nel neutro non ci saranno dopo l'estate. E assomiglieranno sempre di più all'odio che è ora, esatto. Vero? Per vedere se... l'evoluzione del neutro. Sì, per vederlo in divenire ancora dandogli 3 mesi di tempo. Sì, sembra fermentato. L'odio. Però è diverso se l'odio è fermentato e quindi è andato in avanti, oppure se invece, come sostiene la dottoressa Candy, in realtà si è sospeso questo odio perché dopo un po' non ferisce più, mentre nel neutro c'è un'accelerazione. Eh sì, non alimentandolo. Di base abbiamo attaccato una vibrazione, che sono lettere, che noi creiamo, diamo voce. Quindi... glifi. Esatto. E questa è un'informazione che l'acqua si porta dietro. Quindi è alimentata da questa informazione frequenziale. Questa non ha nessuna informazione frequenziale, il neutro. Ed è rimasto così. Con questa isoletta galleggiante abbastanza putrescente. Non vedo le rane. Però, sì, ecco, non convince, mi lascia perplesso. Allora io ti suggerirei di accondiscendere a questa mia proposta. Cioè, l'amore lo berrei, ecco. Sì, è questo, lo berremmo, è vero, è limpido. Non invitante. È invitante, addirittura. Sì, l'amore quello, fresco. Emana quella frequenza di, di benessere. Ce lo trasmette in un modo chiaro, limpido, appunto. Allora, forse. E poi... l'acqua evaporata è quello, sul quello collo è decisivo, della... è il collo della bottiglia dell'odio, l'odio è pieno è... di acqua evaporata. C'è stata una reazione. Sì, c'è quella roba lì. Per questo io suggerivo forte di lasciarlo ancora 3 mesi per vedere se fra 3 mesi sì sarà così il collo della bottiglia allora dell'odio. Allora non guardiamo il neutro, invece di dargli amore, niente appendice. Niente, a me fra 3 mesi giochiamo. L'appendice mi interessava, ma mi interessava secondo me anche una seconda appendice che non abbiamo calcolato ma proposto. Perché non bere l'amore? Realmente. Cazzo, un infuso d'amore. A questo punto, in realtà, chi fa il vino, l'olio e tutto il, tutti io rilascerei tutto dopo l'estate. Se ancora ci convincerà, sì, sarà l'ora di berlo. Ci poniamo assieme, prenderemo d'acqua uno sciottino d'amore fra di noi. L'esperimento, grazie amore. Grazie amore. L'esperimento siamo noi, decisamente. Noi siamo pronti per la scienza a immolare i nostri corpi. Quindi andiamo a rinfrancarci in estate nei mari di questa penisola e poi torniamo qui a bere bottiglie fermentate. Sì. Va bene. Sì, allora, sì. A settembre. Non c'è tempo della canzone di inframezzo, non c'è tempo per cambiare base, andiamo a diritto in questa puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Sì, via. Domande, una raffica di domande, non le riusciremo a sentire tutte oggi, quindi rimandiamo alle prossime puntate e iniziamo a sentire le prime. Maestro Ottani, le ultime due puntate, in cui le ultime tre, insomma, prima della dottoressa Candy, quando eravamo da soli, hanno molto suggestionato i nostri ascoltatori e ci hanno mandato una serie di domande. Sono rivolte principalmente a te, ma è con noi il maestro Ricky Gianco. Prego entrambi di prestare attenzione a quanto ci chiedono, sì, e di dare una risposta a chi ci ascolta. È una sequela di domande. No, non dico niente. Sentiamole, via, dai, senza introduzione, via. Ciao, sono la Ianara di Isernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà? E questa era la domanda della Ianara di Isernia. Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla, e infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana. E in questo senso io penso che dovremmo smetterla di andare a, come dire, cercare di alimentare e di fornire di funzioni e di possibilità, un'intelligenza che è altra da noi, in quanto stiamo sprecando energie e risorse per accrescere la nostra, semplicemente. Quindi tu in ultima istanza, maestro, sei un umanista? Un umanologo. Maestro Richigianco, condividi questa posizione? Assolutamente sì. Bene. E sono senza parole, per lo più. Anch'io sono un umanologo, allora. Sento umanologo anch'io. Ma certo, in qualche modo, come dire, logobiologi, nel senso del fatto che è ovvio che se siamo in grado di rispecchiare i meccanismi della nostra stessa intelligenza e ci fissiamo soltanto a fare quello, per fondamentalmente poi cosa? Far svolgere a questa AI, a questa intelligenza artificiale, i lavori più umili che non abbiamo più voglia di fare? Per ora non mi sembra che si stia andando tanto in quella direzione, anzi piuttosto ci sta prendendo i lavori più belli e interessanti che ci sono da fare. Vedi quei poverini degli artisti che fra un po' rimarranno tutti senza lavoro. Creativi? Creativi. E ce lo cachi che sei un artista. Io c'ho l'intelligenza artificiale. Molto bella questa risposta, inaspettata e complicata, evviva! Bello, bello, bello, bello davvero. Sì, sì, noi è una risposta politica, una risposta politica. La risposta politica è che vuole anche appunto affermare che una coscienza in realtà, quindi per ritornare proprio sulla domanda, una coscienza a mio parere ce l'ha già. Sì, sì. E che non ha abbastanza mezzi tecnici, che siamo noi a fornire poi, per esprimerla. Allora, ci è giunta un ippogrifo, è giunto in redazione, ci ha portato un'epistola, è una pergamena, è una lettera. È una lettera, chi la manderà siamo sicuri, prima ancora di aprirla è di Giulio Ciripeo VII. Non sappiamo se c'è tempo per leggerla quest'oggi, però è un'epistola, do un'occhiata, la sto scorrendo, è lunga, densa e sanguigna. È il caso di forse rimandare, vediamo. Grazie ippogrifo. Vuole andare. Perché forse dobbiamo dare priorità a chi ci ha contattato con la messaggeria del Wombat. messaggeriawombat.vado.li. Lì c'è un bottoncione rosso, si può premere e mandarci dei messaggi audio. Ce n'è arrivato qualcuno. Questo maestro Ottani è tutto per te. Pronto. Sempre dal sud, sempre da un mondo stregonesco. Maestro, salve, sono la Borda Vellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morto in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie. Chiaro cosa ha chiesto. Lei, effettivamente, tu, maestro, in una scorsa puntata hai raccontato effettivamente di essere morto in una tua precedente, nella tua precedente vita, trafitto da una lancia sotto il costato, giusto? Allora, l'ho detto, però non era propriamente sotto il costato, nel senso, cioè sì, era sotto il costato, non però... sotto l'ho detto, io l'ho detto nel costato, nel non costato, mi ricordo cosa avevi detto. Io ho detto giustamente sotto il costato, ma al centro del costato, quindi... No, non stiamo parlando di Gesù Cristo, che quella è una precedente ancora, ma ne parleremo. Grande Joshua. D'altronde, l'epiteto maestro da qui. No, a parte tutto, questo episodio io sono convinto che sia avvenuto in quell'epoca, quell'arco temporale che usiamo chiamare Medioevo. Ecco, altri dettagli che derivano un po' da alcuni miei sogni lucidi, un po' da alcune reminiscenze e rimembranze dovute a fenomeni normali e paranormali, nel senso anche facilmente spiegabili con la sola teoria freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera. O fantasie, semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia. E quindi questa mia precedente vita, io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica attraverso una lancia conficcata al di sotto dello sterno, laddove si trova il quarto chakra, chiedo sì, al maestro Ricky Gianco, perché è più esperto di me su questo, nello stomaco, praticamente la bocca dello stomaco. Sì, la pineale, no, la pineale no, sua è qua proprio lo sto indicando. Sì, è il quarto, perfetto, il quarto. Però, non mi sbagliavo. Sì, è lui. Sì, è l'oceano del Qi, è quello lì che chiamano così, mi sa, i cinesi. Solare. Il plesso solare, è arrivato, scusate, era oscurato da una nube. Era il questo. Plesso solare, bentornato, sì, bentornato, è certo. La particella divina, esattamente. Il nostro sole interno. In quel punto lì, in Giulia lì è letale. Sono stato trafitto in un'altra vita. Non è visto la mia, come dire, grande difficoltà nel imparare a guidare le automobili, probabilmente quella precedente a questa. Chissà come andrei col cavallo. Sei sempre stato un uomo d'altri tempi, ma in fondo anche d'ogni tempo, caro maestro. No, non abbiamo tempo per la lettera di Ciripeo. Ciripeo mi risponde, l'avevo scorsa nel frammentre, mi risponde... a cosa mi risponde? Mi risponde ai miei anagrammi. L'avevo sfidato con 7 anagrammi sulla nota sol, ho letto qualche parola, sto già impallidendo, quindi rimando la lettura alla prossima. Ma quindi attendiamo ben due risposte. Grazie Ciripeo, grazie. Attendiamo ben due risposte. Una, a Ciripeo. Una, quella che chiedestigli tu. Sì. Giusto? Sì. Ovvero di rispondere, cosa gli abbiamo chiesto, ora mi sta sfuggendo? Sull'esperimento dell'acqua. Ah certo, il suo lì. Commento, giusto. Rispetto... E poi questa alla tua sfida. Che c'è già arrivata, questa epistola la conserveremo sotto teca fino... Ma tuttavia cosa è successo? Che nel frattempo forse l'anagrammista ci ha mandato ancora qualcosa. Sono io che tardo a leggere tutto quanto. Vediamo se faccio in tempo però. Tic tac. Ciripeo. Grazie a tutti. Sì, quello lì. L'anagrammista Ciripeo ci ha mandato qualche anagramma. Perché avevamo parlato delle porte di Tannhäuser, no? Porte di Tannhäuser. Nella scorsa puntata ci avevano chiesto dei primi avvistamenti UFO, delle prime definizioni, eccetera. Fantascienza, USA anni 50. Anagrammato un po' le porte di Tannhäuser. Il maestro. L'altissimo Giulio Ciripeo. Senti. Le porte di Tannhäuser è anagrammabile in varie cose. Ne leggiamo qualcuna, ce ne mandate a bizzeffe. La prima, Sereni Pentotal Dura. Ce n'è un'altra. La leggiamo col disclaimer implicito, che non facciamo. Hitler è super dannato. È un anagramma delle porte di Tannhäuser. Bellissimo. Ancora, In prosa d'eterna Thule. Molto bella, molto bella. Ancora, Tu Helios Pan Derrante. Mitologica. Pure tanto Senal dice. Eccone un'altra. Molto divertente questa. Ho un pattern siderale. Rotto tutto. E ancora Hal, despota in tre rune. H.A.L. Incomprensibile per me. Wow. È H.A.L. Despota in tre rune. Sono quelle precedenti, H.A.L. Le tre rune. Le tre rune. Non ho ancora capito. Nemmeno io. Faccio però... finta di sì se volete. Sostituisci a runa la parola lettera. Ti torna di più. Sì. Ok. Ma sarà qualcosa Al, perché sennò poteva dire fuck. Al, secondo Kim, me tot, no, qualunque cosa andava bene. In realtà come acronimo ce l'ha. Chiediamo un chiarimento. Ce lo dirà. L'ultima ci illuminerà. Sunte odie pl errata. No, difficilissima. Domanda, punti e cazzo. Troppo alto, troppo latino. Sta per plurale. Forse, troppo difficile, l'anagrammista ogni tanto svetta troppo alto. bene, torniamo alle domande. Grazie una grammista. La lettera alla prossima, la prossima. E adesso invece l'ultima domanda che mandiamo oggi, perché poi è troppo tardi per mandarne ancora, anche quelle tutte per la prossima. Quante cose per la prossima? Allora, sentiamo la domanda, ancora dal Sud, un tratturo. Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. Vorrei sapere, o vorrei capire meglio, se la tecnologia ARP ha in qualche modo influenzato o contribuito allo sviluppo del terremoto in Turchia, in Siria. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali? C'è. E la sto utilizzando in questo momento. No, a parte gli scherzi, non lo farei mai. Mira bene. Non lo farei mai. Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche. In che senso? Nel senso che è noto, a parte ora tutto il fenomeno, la polemica che si può generare intorno al concetto di scie chimiche, è noto per esempio che il governo cinese ha utilizzato in alcune occasioni dei dispositivi che consentono di controllare e cambiare il clima o soprattutto il meteo in determinate aree. Maestro, se non ricordo male, fu durante l'apertura delle Olimpiadi, esatto, che disse una pubblicamente che non avrebbe piovuto. Una di queste fu successivamente durante... Abbiamo murato le nuvole, vedrai, non pioverà. Recentemente, se posso... aerei allogenuri d'argento a palla. Allogenuri d'argento. Si usavano anche da noi negli anni 60. Quindi questo tipo di tecnologia non è l'agricoltura. Questo tipo di tecnologia non è affatto sconosciuta all'Occidente, quantomeno, ma nemmeno all'Oriente, come abbiamo visto. Recentemente ho letto che a Dubai, ho visto dei video, se sì, non sbaglio, allucinante anch'io, sì. Ci sono stati degli alluvioni enormi, catastrofici, perché ha piovuto più di quanto piove in un anno, in 24 ore, dopo che il governo aveva annunciato che avrebbe fatto piovere intenzionalmente, rilasciando, come si dice, ingravidando le nuvole. Questo non fanno altro che guidare le perturbazioni. E riescono con le scie a bloccarne l'estensione. Quindi se una perturbazione come ci fu nel Ravennate, credo l'anno scorso ormai, dell'alluvione, sì. La perturbazione si estendeva su 60 km di costa quando si è addensata sulla costa, facendo un giochino strano, alcuni piloti dichiararono di aver sorvolato così con delle bombole la costa, riuscirono ad addensare la perturbazione nel raggio di una ventina di chilometri. Capite bene che da 60 a 20 sono scese le cascate del Niagara. Certo. In un punto preciso. Esatto, cioè non fanno altro che bloccare, non generano, però possono generare terremoti, quello sì. Maremoti. Ma poteva fare anche d'altronde famoso Pierluigi Ghina, laboratorio di casa sua. Sì, esatto. Però, cari maestri, siete molto. È importante questo aspetto, io ritengo, perché vi vedo molto solidamente convinti e tuttavia vorrei muovere la vecchia obiezione di Umberto Eco. Prego. Ovvero, richiederebbe un tale numero di persone che fanno parte di questo, che è impossibile che nessuno negli ma anni. Ma infatti è radicato. Cioè, è dichiarato. Non è una. Cioè, significa. Non è un. Come dire. Non chiedono il consenso a nessuno. Un complotto in questo qualunque senso. Qualunque lavoratore all'aeroporto vedrebbe se c'è qualche cosa d'attaccato sull'aereo, farebbe un filmato da qualche parte. Non sono assolutamente voli di linea, quelli che rilasciano sono scie diverse, ma comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva, ma e chi vuole indagare, chi ma la spiegazione del il grado di condensazione legato alla pressione atmosferica, la temperatura e il livello di quota diverso delle scie, quindi quello sono in ma realtà, poi non sono solo le scie chimiche, cioè ma non, è, sì. non sono solo le scie chimiche come tecnologia. Prima abbiamo citato, no, è Ghia. Vero, ci stiamo soffermando troppo. Prima abbiamo citato, no, ma perché era per dire che un modo può essere, sono state sicuramente, sono anche le scie chimiche, ma più come diceva il maestro Ricky Gianco, forse di controllo e di direzionamento, che mi torna anche di più. Ma quando si tratta di far piovere o non far piovere, le tecnologie in campo sono altre. Ighina riusciva a farlo attraverso questa sorta di valvola che se la piantava nel terreno, infatti diventava la valvola per i terremoti. Se invece la costruiva a forma, esatto, a forma di elica, rilasciava degli ioni, per l'appunto, caricati in un certo modo, facevano a seconda del fatto se volesse o no, sì. Perché sennò dice semplicemente cambiava, come si dice, il verso, e quindi le sparava verso il basso e di conseguenza le toglieva in quel Nebbia. Modo. Ricordiamoci il famoso, perché poi tu dici giustamente, Mario, non voglio muovere un'obiezione, certo, è, come dire, è assolutamente legittima, però io vorrei ricordarti anche l'episodio del Gran Premio di Imola, dove fior fior di tecnici delle casse automobilistiche sono andate a pregare il professore questa volta di non far piovere, perché lui ce l'aveva con le macchine che gli passavano, perché lui aveva la casa costruita credo all'interno proprio del circuito. Quella è una verità. Quello è importante, No, ho visto anche il video di Ghina ripreso dal TG3 che fa addensare le nuvole. Che lo fa in diretta, fra il resto. Ora, mi colpiva lì che lui rilasciasse delle particelle, se non sbaglio, d'alluminio caricate in effetti in un certo modo su queste eliche. Cioè non avveniva soltanto con un'elica che girava, cioè veniva... Se lo fa questo povero vecchino in un... Povero, non potrebbe, lo faceva. Cioè, quella è conoscenza, poveri siamo noi. No, ma io volevo dire povero tra virgolette, sì, certo, chiaramente. Purino, lascialo fare. Infatti, che la terra sia lieve anche a lui, e nel senso, lui era ovviamente capace di farlo su un raggio, su di una superficie, come dire, non così estesa, con i mezzi di cui disponeva. Io penso che uno Stato, come la Cina poi, sia assolutamente, ma non solo come la Cina, dico di quella stessa portata e potenza, sia in grado di fare... D'altronde l'hanno dichiarato, lo dicevi tu stesso, a Dubai, in Cina, non si fanno... L'alluvione di Dubai è un fatto. È un fatto, non si fanno problemi a parlarne. Mm-hmm. Questo è. Poi il fatto che uno da parte della popolazione può pensare ma questi stanno giocando con il clima e con il meteo, non è proprio giusta come cosa, con il nostro culo, con il nostro culo, no, di scusate, conseguenza e probabilmente uno può avere un'opinione come che no su questo argomento, ma come io penso su tante altre cose, a me, io la collegherei essenzialmente all'inquinamento come fenomeno. È un fenomeno di inquinamento in un certo senso, in un certo modo, perché poi comunque noi possiamo pure avere la tecnologia per far piovere o far venire il sole, ma forse non abbiamo ancora abbastanza tecnologia per capire quali saranno le conseguenze di queste azioni, e questo credo che sia importante da tenere di conto. Ce lo dirà il tempo, per chi ne avrà. Noi finché potremo saremo qui a testimoniare. Ma scusate, vi lancio Nibiru. Nibiru. Cambierò ve base per questo lancio. Ve lo lancio, ragazzi. Da qui il sole e tutte le sue esplosioni coronariche. Ah, quelle che ci fanno vedere, che ci hanno fatto vedere l'aurora boreale. Sì, qui a Quinto. Bellissimo. Orbene, è il momento dei saluti. È andata così questa puntata: domande, risposte, commenti e curiosità. Per le prossime abbiamo da fare, da dire, quindi rimanete con noi fra due settimane. Ce n'è. Ma prima, visto che abbiamo cambiato base, visto che ho due maestri, cazzo, non me la faccio sfuggire questa occasione di chiudere questa domanda. Rispondono a tutti e risponderanno anche alla mia di domanda, che però alla fine è sempre la stessa. Lasciateci, per favore, maestri, anche queste due settimane con una verità sulla quale meditare, un concetto, una riflessione, qualcosa che possiamo, portare con noi per 2 settimane e poi ritrovarci assieme per commentarla. Ma queste verità devono arrivare a seguito di una domanda, non ho capito. No, è un tema libero. Ok, tema libero. È un tema libero per gli ascoltatori. Fortissimo ero nei temi liberi io. Vai, allora sentiamo un po' di Sexy Planet mentre vai, ci pensiamo. Vai libero, vai libero. Vai libero, fai come faresti. Segnali. Una verità, eccola qui. I dispositivi sono importanti, nonostante l'umanologia che mi contraddistingue, dirò che i dispositivi sono importanti e dirò anche che per arrivare a ad avere la potenza di far venire il sole e di far piovere nel bene e nel male, e al di là di esso, dovremmo smetterla di toccare con le nostre manacce questi schermi touchscreen. Ecco una grande verità. Sfogliate i libri o mettetevi le dita nel naso. Grazie maestro Ottani, grazie. Ci sto già iniziando a meditare. Grazie, io. Grazie, grazie. Vedo anche le dita nel naso, sì. Io pensavo sì, di... Scusa. No, volevo la carta, cercavo che mi mancava. Ho quasi finito. Maestro Ricky Gianco, una parola. La verità fa male. Questa verità a me in questi giorni fa malissimo. Vi cito Krishnamurti. Io sono il mondo e il mondo sono io. You are the world and the world is you. E fa malissimo vedere che l'altro che ti sviscera, che ti avvelena, alla fine mi somiglia. È la parte di me che non riesco ad accettare. Boom. E questo fa malissimo. Se fossi tranquillo e in pace vivrei in quinta, ma invece sono qui. Questa è una verità. Con voi a soffrire. Questa è una verità atomica, direi. La definirei atomica. Fa malissimo. Grazie. Ricordo una poesia. Mi ha fatto venire in mente di Caproni. Dice: ho scorto uno per uno negli occhi i miei assassini. Hanno tutti quanti il mio volto. Grazie. Grazie a te maestro Ricky Gianco, grazie davvero per essere stato con noi, grazie maestro Ottani, grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con Lezioni Universali di Esistenza. Amore, amore, amore. Ziggurat. Roger, we got it, we've launched it. Who's the communication? Bravo, Bravo.